últimos con la ley en fondo que hacía en la diamante. ¡Morena mía! No quedo chis y otro de Popeye y Rick Ordin. Cosa catrano, lo sabe mero. Que hay beta tono e dimentica de tutto quello che fa successo per te. E se sarà come prima venizieremo da capo. Questo mese in sottoterra fai con che fai amicine. E se lo farò di te. Wow, l'altro giorno sento. Tranquilla, io ti aspetterò. Ultimo assaggio alle mie ipocrisie di orgoglio. Non credo ci sia il tuo tempo per rimanere. Cosa accadrà non lo sa nemmeno. Ti ha inventato lo e dimenticate tutto quello che è successo per me. E se sarà come prima inizieremo da capo. Quattro mesi sottoterra cari coppie agli amici. E se lo farò sì. Ma un altro giorno spento. Quando io me ne andrò e tutto quello che io farò laggiù. Se te ti aspetto sai non si torna indietro ormai. L'aspetto di uno zombie cosa mi avete fatto? Ma ti ho riato di questa cosa. Voglio di come io ti sto censuri. Me non voglio non finire. Voglio, voglio, voglio che tutto questo finire. Posso sentire urlare, posso sentire cadere. Ho sangue in ebollizione ma non so che succede. Le farbate di distesa mi dicono solo che urlai tra pegatura. Se sarà come prima inizia.